Allora, io tornerei in voce per passerei a parlare di Perù. Abbiamo una serie di cose da dire. Intanto io ti vorrei chiedere, perché di Perù non ne abbiamo mai parlato. Il Perù è un paese, credo che nei nostri stereotipi mentali, o è romantico Machu Picchu, il no? La romantica natura, oppure sono il poco che si conosce, perché hai conosciuto qualcuno, o comunque insomma del Perù non si parla. Se poco si parla del continente americano, direi che del Perù se ne parla poco. Quindi io, Eddie, ti vorrei chiedere un po' come quello che sai rispetto a quello che sta succedendo alle città, cioè come quali sono stati gli ordini, perché poi qua ormai mi sembra che si parla di ordini che vengono dati alla diciamo alle comunità nelle città per contrastare questa emergenza. Beh, intanto in Perù lo Stato ha portato per le strade le forze militari, tutta la forza di polizia, e quindi ha indetto il coprifuoco serale, e ci sono ogni sera, ci sono ovviamente tutto questo dentro alle misure di quarantena, e ci sono ogni sera, ogni pomeriggio, insomma, ci sono persone caricate dalla polizia, picchiate, insomma, denunciate, persone che si fanno, che insomma, che vengono arrestate tutti i giorni, perché ovviamente in Perù il 70% almeno a Lima il 70% della popolazione ha un lavoro non formale, insomma, e di conseguenza se non esce a lavorare tutti i giorni non mangia. Quindi di questo purtroppo il governo non ha proprio non si interessa, quindi le persone devono uscire, eppure pure se ci sono i militari o la polizia, non insomma, loro ci tengono un po' di più a sopravvivere, ecco. Tra l'altro io credo che questo, se non mi sbaglio, questo Covid è arrivato tra capo e collo a un presidente che è un presidente di transizione, giusto? Sì, sì, sì, è arrivato a un presidente di transizione, perché quello precedente è stato destituito perché mischiato in una serie di truffe internazionali, insomma, ovviamente essendo un ex banchiere, ex presidente peruviano, capirete un po' il livello della situazione. Addirittura è stato mischiato nella polemica Odebrecht, che è stata una grande polemica finanziaria in tutta Sud America. Sì, appunto, tu dicevi che appunto una popolazione a Lima del 70% che fa lavori non formali, quindi diciamo sopravvive dei lavori in nero che fa, che spesso forse non sono anche lavori in nero, se non andare a vendere i propri prodotti per strada, credo che più o meno di questo stiamo parlando, no? E come mi raccontavi, vengono arrestati ogni giorno escono e tornano a lavorare. Sì, sì, sì, è perché Non c'è un altro modo, non c'è, le bollette continuano ad arrivare, e gli affitti si continuano di a pagare. La casa. E a differenza di diciamo dell'Italia, in Perù non esiste il bonus affitto, non esistono tutte queste prese per il culo che già ci stanno qua. Diciamo che là proprio non esistono manco quelle elemosine, diciamo, che è l'unica elemosina che ha garantito, diciamo, lo Stato, è stato un buono, diciamo, un buono per le persone che secondo lo Stato sono in fragilità sociale, di 380 soles, che sono all'incirca 100 euro, e con la quale dovrebbero campare per tutto il tempo della quarantena. Ovviamente non tutti sono accreditati di quel bonus, perché ovviamente non tutti vengono riconosciuti dallo Stato. Poi lo Stato ha garantito per ogni municipio, insomma, la consegna dei pacchi familiari. Però anche su questo non arrivano, in alcuni municipi arrivano, in altri non arrivano, però soltanto questi due aiuti sta dando lo Stato in questo momento. E per tutto il resto ovviamente ci deve pensare lo stesso cittadino, e quindi ecco perché esce comunque sia disobbedisce alle ordinanze statali. Rispetto invece alle zone più rurali, adesso non dico tu che sai, ma cosa ci puoi descrivere come situazioni? Nel senso che adesso faremo un po' un'introduzione, ci siamo sentiti in dovere di preparare una piccola introduzione all'audio che vi manderemo e vi spiegheremo perché, ma in questo audio si parla anche di cose molto reali, come per esempio una gran parte del territorio peruviano che vive completamente isolata, perché nonostante il XXI secolo ancora manca delle cose basiche, no? Sì. Ci sono molte comunità, insomma, molte città fuori dalla capitale che ancora non rientrano nel Perù, proprio effettivamente, perché non mancano de luce o chi de fognature, comunque sia non sono ancora a tutti gli effetti peruviani, ecco, per dirla così. Però in questa pandemia, per esempio, molte di queste persone che sono emigrate a Lima per cercare di trovare più posti di lavoro, eccetera, eccetera, stanno ritornando. Però stanno ritornando a piedi, questo è il discorso, perché da Lima hanno bloccato tutto, non mettono pullman a disposizione, cioè non mettono nessun aiuto a disposizione per chi sta tornando, perché ovviamente non riescono a pagarsi affitti o roba varia, e ovviamente fanno parte di quel 70% delle persone che non hanno un reddito fisso, quindi stanno cominciando a ritornare in queste nelle loro città natali, dove ovviamente il contagio è quasi nullo, insomma quindi possiamo immaginare, insomma, così passando da paese in paese, come rimangono un po' le stesse parole d'ordine, quindi la repressione, i militari che occupano le strade, le piazze e delle regole emergenziali che non tengono assolutamente conto delle realtà poi della popolazione. Io entrerei nel merito dell'audio che vi facciamo ascoltare, perché non è mai semplice, credo Eddie, no? Non stiamo qui a dire bugie, non è sempre semplice trovare compagni disposti, ma capiremo anche perché, a parlare a viso aperto da prigionieri politici. Questa è una questione anche di leggi. Certo è che il Perù viene da un conflitto enorme che viene chiamato terrorismo. Dico viene chiamato terrorismo perché due erano i gruppi che hanno preso le armi, diciamo più o meno negli anni '80, con una piccola differenza di tempo: Sendero Luminoso e Tupac Amaru, con una enorme invece definizione politica diversa. Questo ha fatto sì che le spaccature si siano moltiplicate, nella misura in cui noi qui possiamo dare il nostro pensiero, la nostra predilezione, il nostro giudizio. Noi abbiamo cercato di fare quest'audio nella maniera più spuria possibile per parlare dei prigionieri politici, rimanendo al di là di questo conflitto. Chi ci ha fatto quest'audio, per fare l'esempio di una persona anziana che vive una condizione da detenuto politico, ha parlato appunto del capo di Sendero Luminoso. È un'abitudine che, ahimè, ogni volta che ci scontriamo, ogni volta che cerchiamo, e io per anni mi sono scontrata con questa cosa in questa radio, mi ci scontro perché personalmente le mie preferenze probabilmente sarebbero altre, rimangono le mie, ma perché ci ha fatto un po' rimanere male. Tu c'hai il microfono aperto, dimmi se sbaglio, ci ha fatto rimanere male che questo prigioniero politico, cosciente della propria posizione, nonostante abbia pagato 5 anni in un carcere a 5.000 metri, finisca parlando di questa persona, la porta come un esempio, ma insomma chiaramente poi ne fa un po' la vittima di turno. È una cosa, noi abbiamo preferito farvi questa introduzione piuttosto che tagliare l'audio, perché questo discorso si mischia con quelle che sono le richieste dei prigionieri, e abbiamo preferito fare questa introduzione dissociandoci un po', una parola orrenda, però allontanandoci allontanando la nostra visione dall'appartenenza di questa persona a questo esempio, perché non lo ritenevamo proprio un po' non lo ritenevamo utile, non lo condividiamo probabilmente, noi sicuramente qui no, e credo anche di poter parlare per altri e altre di qui, però ci interessava invece mantenere aperto quello che è il discorso sui prigionieri, quindi più che tagliare un audio in maniera un po' laida, abbiamo preferito fare questa introduzione, mettere un po' le mani avanti e farvi capire che sicuramente, mo mi sfugge il nome del tizio, perché Diego, Diego. No, non lui, il jefe, de jefe. Abimael. Abimael Guzmán, stiamo parlando di Abimael Guzmán. Sicuramente Abimael Guzmán ha una condizione particolare, dopodiché non credo che sia l'unico, non credo che la condizione che vive Abimael Guzmán sia la sua unica, per cui a noi non ci interessa dare un nome, dare un'appartenenza politica al fatto di essere prigionieri o prigioniere. I prigionieri politici di ambedue le parti sicuramente pagano da prigionieri e prigioniere politiche, e sentiremo come tutta una serie di misure che poi vengono prese in particolare per i detenuti e le detenute politiche. Quindi ci tenevamo a dirlo, no? Sì, sì, sì, è stata molto chiara e condivisibile anche da me. Ovviamente questo per introdurre pure che una settimana fa sono scoppiati gli ammutinamenti in tutti i carceri del Perù, soprattutto nel carcere Miguel Castro Castro di Lima, dove un paio di giorni fa sono state uccise nove detenuti, tra cui un prigioniero politico. Infatti per questo diciamo che abbiamo avuto anche, siamo riusciti a rimediare questo audio da questo compagno che diceva Marta. Allora io vi metto un attimo così, forse la sigla, un pezzetto di sigla di sottofondo per organizzare la traduzione che vi farò in simultanea, quindi abbiate tanta pazienza. Todos los jueves a las 17, la esquina del sur, sube frecuencia de Radio Onda Rosa. Buenos días, mi nombre es Diego, acá desde Lima, Perú, y voy a hablar de mi condición de ex prisionero político. Hoy me llamo Diego, vi parlo da Lima, Perú, y vi parlerò nella mia condizione di prigioniero politico. Bueno, como todos sabemos, hoy azota pues a todo nuestro pueblo del mundo una pandemia, ¿no? La pandemia ha llevado a que cientos de hijos de nuestro pueblo hoy estén padeciendo, estén muriendo, pues, algunos en la calle. En este caso puntual, la situación de los penales al cual me tengo que referir puntualmente, ¿no? Allora, come sappiamo, sta girando nel mondo questa pandemia, questo coronavirus che sta colpendo anche noi, anche il Perù, i figli del nostro popolo che stanno morendo in centinaia per strada, ma anche nelle carceri di cui mi avete chiesto di parlarvi, a cui mi riferirò. Un Stato desenvuelto en los años 90, un neoliberalismo atroz donde ha barrido todos los derechos, efectivamente, y no contempla, digamos, las necesidades de nuestro pueblo, es muy complejo, muy difícil, ¿no? O sea, hoy este virus, esta pandemia, ha develado cuán destrozado, cuán abandonado está los sistemas de salud, los sistemas de transporte, incluso hasta la base de datos digamos, del Estado sobre la población civil, ¿no? Sobre la población vulnerable, ¿no? O sea, dunque, negli anni 90 il mio paese è stato travolto da un'onda di neoliberismo che ha creato ancora più una distanza tra quello dalla necessità del nostro popolo, in cui il nostro popolo non è stato assolutamente compreso. Esattamente, per quello che noi non abbiamo potuto comunque sia sostenere più questa situazione. E soprattutto questo virus ha rivelato quanto il nostro popolo è stato abbandonato e quanto il nostro popolo è abbandonato e ha messo in risalto tutte quelle che sono le mancanze del sistema. Molto complesso, molto difficile. E noi non siamo ajeni a tutto ciò che passa nel mondo, no? Non siamo lontani da tutto ciò che sta succedendo nel mondo. Ripeto, ti ho puntualizzato il tema dello penale. Los establecimientos penales hoy albergan a casi 69.000 presos en todo el país, ¿no? De esos presos, o sea, si la población está abandonada, vulnerable, imagínense las prisiones. Allora, il primo dato che, parlando delle carceri, il primo dato che vi do è che in Perù ci sono 69.000 prigionieri. Se vi racconto che la popolazione civile è assolutamente abbandonata a se stessa, potete immaginarvi cosa può succedere dentro le carceri. Eso ha llevado que haya estallidos en varias prisiones en el Perú, en muchas prisiones del norte del Perú y principalmente en la ciudad de Lima, ¿no? E questo comporta che ci sono stati parecchi ammutinamenti in molti prigioni del Perù, al nord del Perù, ma soprattutto al centro. A tal punto che la unica risposta del Stato, in vez de dar aislamiento, in vez de dar medicina, de contener todo eso, lo único que ha dado el Estado es represión. Han asesinado a 9 reclusos. Uno de ellos es un preso político que acaba de fallecer, después hay 4 con coronavirus, después hay un pabellón entero, más o menos estamos hablando de 90 personas, 96 personas para ser exactamente, también con ya enfermos, todo con coronavirus. Prácticamente los penales están pues abandonados y están condenados a morir. Esa es la situación puntual de... Allora, praticamente non ci sono i contenimenti sanitari giusti per i carceri, ovviamente. Sì, non è stato dato isolamento, non sono state date medicine, non è stata presa nessuna misura. L'unica misura che è stata presa è quella della repressione. Esattamente. E quindi ci comincia a fare i numeri di quelli che sono stati i 9 morti. Adesso non mi ricordo il nome del di cui un prigioniero politico. Sì, tra questi 9 morti un prigioniero politico, poi ci sono 4. C'è tutto un padiglione contagiato, di cui circa 96 detenuti contagiati di coronavirus. E mi sembra altri 4 deceduti in un altro braccio. Di cui 4 deceduti. Tutta la popolazione in suo conjunto. Ora io voglio incidere nella questione dei presos politici. Questo appunto è rispetto alla popolazione carceraria in totale. E adesso fanno specifico sui prigionieri politici. E sapete come è conosciuto a livello mondiale? En los años 80 en este país se vivió una guerra interna. Una guerra interna entre peruanos, entre un grupo de peruanos que querían pues cambiar la sociedad, querían buscar un mundo mejor. Se fueron a la lucha armada, se fueron a la guerra popular. Estos compañeros, y ahí enmarcado dentro de ello hablo yo como el prisionero, fuimos 22.000 procesados. Allora, negli anni Ottanta, come sapete, si è iniziato un conflitto interno nel Perù per richiedere proprio tutto ciò che mancava, e come vi dicevo prima, appunto, sono stati 2 i gruppi che si sono alzati. Lui parlerà di questi. Di questi 22.000 sono stati processati e 11.000 sono stati condannati. In tutto il paese, de los cuales 11.000 llegamos a estar presos. De los 11.000 estuvimos en 19 penales de todo el país. Questi 11.000 sono sparsi in 19 diversi carceri del paese. No, distinto dentro la guerra había abarcado casi todo el territorio, hace el 95% de todo el territorio nacional. Questa guerra si era sparsa per il 95% del territorio nazionale. Esos prisioneros, bueno, como el Estado ganó la guerra, nos tuvimos que mantener ahí, o sea, prisioneros todo el tiempo. En mi caso solamente fueron escasos tiempos, 5 años nada más. En el caso de otros prisioneros, 10 años, o sea, estamos hablando 95 salían los 10 años, el 2000 salían los de 15 años, el 2005. Allora, le pene sono state diverse, diciamo, di questi. Sì, sì. Le pene sono state diverse, lui personalmente ha avuto una condanna di 50 anni e poi si è creata una scala, no? Di 5 anni, scusa. Ha avuto una condanna di 5 anni, chi ha avuto 15, 20, insomma, man mano andavano, che ne so, nel 2000 usciva chi copriva una condanna di 10 anni, nel 2005 di 15, eccetera. 5 salivano di 20 anni, nel 2015 salivano di 30 anni, no? Prácticamente ese es el proceso, ¿no? Para que sepan, sí, 30 años, queridos compañeros. Un ser humano condenado a 30 años prácticamente es toda una vida, pues prácticamente enterrarlo en vida, ¿no? Y esa es la situación. Y en este caso, los prisioneros políticos del Perú se han sabido mantener, ¿no? Con firmeza, con voluntad se han sabido mantener esos años de alcaldía monstruoso. Si nosotros tendríamos que tallar en todo el proceso de los años 80, 90 del siglo pasado, cómo hemos vivido en las condiciones monstruosas. En mi caso, yo estuve en un penal que se llama Yanamayo, 5.000 metros sobre el nivel del mar. In questo caso lui racconta che le condizioni sono state mostruose, soprattutto per chi ha ricevuto condanna di 30 anni. E poi nel suo caso lui ha scontato la sua pena nel carcere di Yanamayo, che è uno dei carceri più alti del Perù, sopra quasi sui 5.000 metri sopra il livello del mare. Sono due che mi dicevi che sono in Perù, che sono a questi livelli. Sì, sono due. Sì, quindi appunto marcava quanto è stata la fermezza comunque dei prigionieri politici davanti a non solo pene così, ma anche questo tipo di detenzione, no? Comunque. Sin comida, sin alimento, sin visita, ha sido complejo. Hemos pasado genocidios. El año de 1986, un 19 de junio del 86, Alan García, Pérez, presidente del Perú, hace un genocidio, asesinando en un solo día 300 presos políticos. Praticamente lui sta raccontando che loro hanno subito genocidi, hanno subito abusi, di cui racconta particolarmente un genocidio del 16 giugno del 1986, dove il presidente in carica Alan García fece un genocidio uccidendo circa 300 detenuti politici. Pues el año 92, en el cual yo estuve, asesinaron a 51 presos políticos fusilados el 6, 7, 8 y 9 de mayo, 4 días de resistencia eroica. E llevò fucilano a 51 de los nuestros y 3. Quindi appunto in questi tre giorni fucilano a questi 51 prigionieri politici in queste giornate di maggio, che appunto facevano delle richieste dentro le carceri, e vengono fucilati. Cientos y tantos ellos. Esa es la situación nuestra de los presos políticos, ¿no? En el Perú. O sea, golpeados, violados sus derechos, o sea, asesinados. Cuando no han podido asesinar a los presos, han asesinado a sus madres. Las madres que iban llevándole la comida, iban llevándole los enseres al penal, cuando salían eran atropellados por las fuerzas represivas. Allora, chiaramente le condizioni sono che dentro questi carceri non è garantito neanche il pasto della mensa. Si creano delle situazioni particolari, perché dentro questi carceri ti devi guadagnare tutto, te lo devi trovare da solo, e questo è ciò di cui sta parlando. E spesso, quando non venivano colpiti direttamente i prigionieri politici, si colpivano i loro familiari, che si recavano alle carceri per esempio a portargli da mangiare. Quindi ci sono state madri che hanno portato il cibo ai propri parenti, e quando sono uscite sono state aggredite e uccise dalle forze armate, e questa era un po' una costante. Esa es la verdad, que algún día saldrá a la luz, pero hoy no podemos hablar mucho porque somos condenados, somos perseguidos, somos sistematizados. ¿Por qué? Porque hay una ley que se llama el negacionismo. ¿Qué es el negacionismo? Allora, qui si parla di negazionismo, una parola pure noi che conosciamo, ogni nella memoria, è un motivo per cui bisogna fare tanta memoria, appunto. Dice: queste verità sono racconti che un giorno si potranno raccontare. Oggi noi non possiamo farlo, non solo perché siamo prigionieri politici, ma perché veniamo minacciati, appunto le nostre famiglie vengono minacciate, e perché è stata promulgata questa legge, la legge del negazionismo, che serve poi a trattare esattamente quel conflitto di cui vi parlavamo, quel momento storico e quella levata in armi anche dei movimenti dei movimenti sociali, che ahimè invece non può più raccontare la storia. E sentiamo perché. De que nosotros tenemos que decir lo que hubo en el Perú es terrorismo. Lo que hubo en el Perú no fue una guerra interna, mucho menos decir que fue una lucha armada, mucho peor decir que fue una guerra popular. Appunto, lui dice: si può parlare solo di, l'unica cosa permessa è parlare di terrorismo, non si può parlare tanto meno di una lotta sociale, tanto meno di una lotta armata, giusto? Giusto. E quindi sono proprio termini che non si possono usare, perché? Si entiende lo che si tiene che dire, che fu terrorismo. Se no, se tu dici lo contrario, entonces tu eres terrorista. E tu eres terrorista, e por ende te vas preso. Perché se tu invece confermi un'altra cosa, vieni denunciato per apologia e finisci in galera. Non è che te fanno una multa. Per dire apologia, può dire solamente eso, están condenados. Imagínense, hay compañeros de familiares presos. A ver, una mamita, una madre de un preso político, va un cartel, dice libertad, no sé, a Juan Pérez, que vendría a ser para poner un nombre a su hijo. Y a la señora la usan por apología de terrorismo porque está pidiendo la libertad de un terrorista. A ese nivel está la situación. Appunto, il livello è che una madre che per esempio esce con un cartello e dice libertà per mio figlio Juan Pérez viene denunciata per apologia e verrà arrestata, processata e condannata. Del negazionismo è la legge. Poi hay una ley che si chiama muerte civil. Muerte civil. ¿Qué es la muerte civil? È donde, por ejemplo, un ser humano, un preso, ya cualquiera sea el delito que ha cometido, pues, le pusieron 20 años a salida. El hombre sale con 20, o la mujer sale con 20 años a la calle, ya pagó su delito. Si algún delito cometió, ya pagó ya. Pero sin embargo lo estigmatizan. Si es profesora, no puede dar clase porque dice es un peligro para la sociedad. Para dar, ¿por qué dicen ellos? Que en 20 años este ser humano no ha tenido cambios en su conducta. O sea, no se ha resocializado. Allora, il secondo problema è la morte civile, no? Noi lo usiamo come parola così, e invece lì è diventata una legge proprio. Qual è la legge di morte civile? Che un prigioniero e una prigioniera hanno scontato i loro 20 anni, 10, 15, la pena che era, si suppone per la legge che abbia pagato la sua condanna, giusto? La legge della morte civile invece crea lo stigma del dopo condanna, quindi se quella persona era un insegnante non potrà più insegnare, se faceva un'altra cosa non la può più fare. Perché? Perché deve dimostrare di rinnegare, no? la propria lotta politica, e cioè non ha dato segni di pentimento e non ha dato segni di essersi, come si dice, reinserita nella società. Reinserita nella società. O sea, e quiere decir que no se ha arrepentido. Pero ¿de qué te vas a arrepentir, queridos compañeros? Hacer la revolución no es un delito. Querer cambiar la sociedad, querer un mundo mejor, luchar por los pobres, por la humanidad, no es un delito. Querer acabar con la pobreza, con el hambre de nuestro pueblo, no es un delito. Imagínense ustedes, para hacerle un panorama nomás, a nosotros en los años 80 nos llevó a iniciar la lucha armada, porque había problemas económicos, políticos, sociales. Nadie es loco para salir a hacer la guerra, más aún con riesgo a él. Allora adesso, se no andiamo troppo avanti, allora appunto lui dice di cosa si sarebbero dovute pentire i prigionieri politici che uscivano. Fare la rivoluzione non è una colpa, perché si sta richiedendo una vita migliore, i diritti per tutti e la dignità, e quindi di che cosa si sarebbero dovuti pentire questi prigionieri politici? E quindi adesso inizia il racconto di quello che appunto negli anni 80 la frase che lui dice: nessuno si diverte ad andare in guerra, nessuno si diverte a prendere le armi. Quello che noi stavamo facendo in quegli anni era chiedere la dignità appunto per il nostro popolo. Preso, herido o muerto. Definimos hacer la lucha de nuestro pueblo porque había hambre, miseria y explotación. Ahora, esas mismas condiciones de hace más de 30 años nos llevó a la lucha armada, hoy están igual, más acentuadas según. E quindi appunto aggiunge che loro hanno fatto questo atto negli anni 80, ma oggi quello che loro volevano combattere è forse ancora peggiore, no? Le condizioni del popolo si sono ancora più inasprite. ¿Cómo puede ser posible que en pleno siglo XXI, en pleno desarrollo de la humanidad, o sea, haya lugares donde no haya agua potable, donde la gente no tenga un caño para abrir el agua para beber? ¿Cómo puede ser posible que no haya sistema de drenaje, o sea, de desagüe? ¿Cómo puede ser posible que no haya luz, queridos compañeros? Luz, algo elemental, en pleno siglo XXI. Appunto, si allucinato dice come può essere che in pieno XXI secolo non ci sono città del Perù e centri abitati che non hanno un rubinetto da cui esce l'acqua potabile, non hanno l'elettricità, non hanno una rete di fognature, non hanno le cose minime. Come può essere possibile appunto una cosa del genere? Y así vive nuestros pueblos. Ahora, ¿por qué ese derecho no le podemos dar a nuestra humanidad viva de la mejor manera? Entonces, esa es la situación concreta de los prisioneros políticos. Hoy, con 30 años, muchas personas, por ejemplo, están con casos bastante delicados. A ver, ¿cómo les puedo explicar delicado? Hay personas que, por ejemplo, la han condenado a 25 años. Faltando un año para que cumpla su 25, le abren otro proceso. con otra causa. Cuando él está, está preso, pero le abren causas que es como si yo ahora estoy, en Lima, Perú, pero yo vivo en Buenos Aires, pero me la cuarentena me agarró en Lima, Perú, y me tuve, era, vine a hacer unos trámites familiares y me tuve, era. Y mañana me acusen, no sé, allá de un hecho en Roma, si yo no estoy en Roma, ni conozco. Allora, ci racconta un po' appunto anche queste leggi cosa producono. Producono per esempio che una persona detenuta, che un prigioniero, una prigioniera che sta finendo praticamente di scontare la pena a 30 anni, gli si apre un nuovo processo. Direte come? A parte per esempio Facundo Giones Uala è un po' un esempio lampante, la storia giudiziaria di Facundo Uala, che non ha niente a che vedere col Perù, direi che è lampante come, come esempio di quello che sta dicendo. Quindi tu sei, e lui fa l'esempio, come può essere una cosa del genere? Io stavo in galera da 30 anni, che posso avere fatto? È come se io abito a Lima e vado a trovare, a fare una questione con dei parenti in Argentina, rimango bloccato lì perché c'è la quarantena e di botto mi accusano di una cosa fatta a Roma, che io a Roma non ci sono neanche stato. Se entiende, así en esos términos han juzgado a los compañeros y los han metido preso y les han metido otro, otra cadena perpetua, otra cadena perpetua. Hay un caso particular. E quindi questo è il modo, diciamo, questo è il sistema con cui ha una persona, ha un prigioniero, una prigioniera che sta finendo una pena di 30 anni, gli si dà un altro ergastolo, altri 30 anni, altri 15, insomma, giù di anni di prigione. Io, siccome sono le 19.06, direi che l'audio lo possiamo stroncare qui. Tu che dici? Vogliamo continuare? Dai, finiamo, mancano pochi minuti. Tanto ormai l'interruzione l'abbiamo fatta. Perché adesso, insomma, aprirà a questo esempio che tra mille, guarda caso, appunto, ha preso questo, noi continuiamo a dirlo. Però, insomma, insieme a questo dice altre cose. Ecco, se avesse parlato solo di lui non l'avremmo mandato probabilmente, ma insieme a queste informazioni, diciamo, usa questo come esempio e noi abbiamo letto che, diciamo, non l'ha fatto casualmente. Sì, e chiedo che los pueblos del mundo se solidaricen. Los demócratas, los revolucionarios, los luchadores sociales, hacen su voz y hagan sentir pues esta, este clamor, esta demanda que necesita hoy este prisionero político. Estamos hablando del doctor Abimael Guzmán Reynoso, 87 años de edad, o sea, ya adulto mayor, 28 años de carcelería y dos cadenas perpetuas. Aislamiento. Allora, appunto, stiamo parlando di Abimael Guzmán Reynoso, 86 anni. Isolamento da 30 anni mi pare e due condanne all'ergastolo assoluto, ancora detenuto chiaramente, e l'unico lo, e lo ve è suo avvocato. Bueno, a veces el abogado no, no, no lo mette in preso, no, perché le paga mettendo preso come una maniera di dejarlo sin defensa. E l'unica persona che vede da quando è detenuto è il suo avvocato, quando i suoi avvocati non sono stati arrestati, perché come vi dicevamo, se poi tu sei l'avvocato di uno così, se tuo madre non può uscire sul cartello, col cartello, figurati se l'avvocato si accolla di difenderti, vuol dire che è un tuo amico, e quindi ci sono avvocati che sono stati uccisi, avvocati che sono stati arrestati per aver assunto la difesa. Sua esposa, también prisionera politica, la professora Eleni Parraguirre, che sta nel penale, o sea, dentro della legge del penale, diciamo la legge del penitenziario, del poder judicial, che tiene che vedere a suo esposo cada dos mesi. Lei ha la moglie anche, detenuta in un altro penitenziario, e può vedere, può avere gli incontri col marito ogni due mesi. Sin embargo, lo ve cada dos años, cada año, previa habeas corpus che non risponde. E invece lo vede, forse glielo fanno vedere una volta l'anno, due volte l'anno, previo tutta una serie di richieste, formalità varie. Entonces la salud del dottor Miguel Guzmán está vulnerable, o sea, es una persona de avanzada edad, y en el cual nosotros responsabilizamos al Estado peruano por la salud y vida de los humanos. Y hay denuncias, obviamente, tanto de los abogados, incluso de la ONU misma, de la necesidad de liberar a los presos que tengan delitos menores o a los que son adultos mayores con una prisión domiciliaria. Appunto, quindi capite che adesso, al di là dell'individuo, non è sicuramente, come dicevo, l'unico avanti con l'età e ancora detenuto come prigioniero politico, e quello che appunto si richiede è per lui e per tutti che appunto i detenuti politici con delle pene minori o quelli maggiori con difficoltà di salute possano essere mandati a casa in questo momento di pandemia. E poi questo ovviamente sobrellevare questa pandemia, come l'ha dato l'Organizzazione Mondiale del Salute. Asimismo, la ONU también le ha dado, por donde la base naval del Callao, donde está detenido el Naval Guzmán, es un centro de tortura. O sea, lo ha declarado la ONU, o sea, no. E chiaramente aggiunge che il carcere dove è detenuto Habib El Guzman sta all'interno di una base navale, quindi insomma diciamo che tutta quella che noi chiamiamo amministrazione penitenziaria lì non esiste né come termine né come dato di fatto. Non lo ha dato nessun organismo di diritti umani, sino un'istituzione internazionale. Claro, perché sta in aislamento assoluto, sensoriale, o sea, come un essere umano non può vivere così? E ahí il dottor viene combattendo, resistendo, hace 28 anni. Entonces esa es la situación en la cual nosotros nos preocupa mucho, porque es un hombre que prácticamente ya está, pues obviamente, en los albores de su vida. Ese es un hecho real, objetivo propio del desarrollo del ser humano. Objetivamente, el nivel de vida en el Perú llega a los 70 años. El doctor tiene 78 años, 68 años de edad prácticamente. Ya está, pues, hay la necesidad de que obviamente vaya... le diano poi la libertà poi a passare con i suoi seri. Allora chiaramente ci racconta la resistenza, l'ingiustizia del trattamento di detenuti come Habib El Guzman, 70 anni che diceva, non ho capito, che è la media dell'età, diciamo l'età? Sì, che è la media la soglia di vita in Perù. Sì, esattamente. E che Habib El Guzman ha 78 anni, quindi per averne fatti 28 in isolamento, capite che comunque è una cosa che adesso lui focalizza qui, ma che dobbiamo allargare, perché non è un trattamento che ha ricevuto solo Habib El Guzman. Come dicevamo, i prigionieri politici hanno radici diverse, molto diverse, e che rivendicano, sono stati anche in conflitto tra di loro, e quindi per questo ci teniamo a dirlo, e comunque hanno questo tipo di trattamento. Nosotros queremos incidir en que la necesidad de que todos los presos políticos salgan en libertad. Si algún delito han cometido, ya pagaron en demasía. A ver, ¿qué delito tuvieron? Rebelarse contra un sistema de hambre, opresión y miseria. Listo. ¿Cuántos años están presos? 30 años. ¿Qué más? Pues 30 años en prisión es toda una vida, compañero. Ahora, en las condiciones, incluso se veía monstruosas, obviamente. Mala alimentación, mala salud. Bueno, eso yo creo que los penales del mundo no difieren mucho en eso. Y en el caso de los presos políticos, sí se acentúa. Si bien no difieren, pero... Appunto, come torna a sottolineare, appunto le condizioni appunto della società civile sono quelle, immaginatevi nei penitenziari, e che quindi come si fa a non lottare davanti a tanta carenza, come si fa a stare zitti, come si fa a non rivendicare dei diritti minimi e di base, insomma. Sì, si accentua más la persecución, los maltratos. ¿Por qué? Porque objetivamente no nos perdonan que gente pobre, gente del pueblo, se haya revelado un sistema de hambre, de miseria, de explotación. Ese es el punto concreto ahora. La situación es que el Estado hoy, de este caso el presidente Martín Vizcarra en este país, no le da solución. Allora, chiaramente lui diceva un detenuto politico che ha preso le armi, ha pagato 30 anni di condanna, 15, ha pagato la condanna di essersi levato in armi per richiedere i diritti di tutti. E quindi che condanna è? Dov'è il senso di questa condanna? Perché è una condanna? Cosa si sta condannando? Il voler ribellarsi a uno stato di fame, di mancanza totale e di quasi impossibilità di vita. E questo chiaramente ha creato poi anche delle recrudescenze, questo non poteva non accadere. Adesso non so, ha fatto il nome di qualcuno che io credo che sia... Sì, ha fatto il nome del presidente Vizcarra, il presidente peruviano, che non è in grado di sostenere questa situazione. Habla todos los días por el tema de la pandemia, pero de las prisiones, pero no, ni lo menciono. Los medios de comunicación, hace 30 días estuvimos denunciando, estaban los habeas corpus, todo, recién han salido ayer en algunos medios poquísimos y bastante acotados a raíz de los muertos, de 9 muertos. Esa es la situación de los prisioneros, reitero. Appunto diceva che il presidente appunto ha parlato, non solo non è in grado di sostenere la situazione, ma nelle poche parole che ha detto non ha assolutamente menzionato le carceri, o quindi di prendere altre qualche misura preventiva all'interno delle carceri, e ha giusto menzionato per dovere di cronaca i nove morti, e probabilmente mettendoli anche in un contesto di cui veramente non vogliamo sapere. Chiediamo la solidarietà di tutti. Ahí hay una página, 17 de abril, Día Internacional del Preso Político, ahí pueden contactarse por la radio, por este medio. Ya sea la radio les puede facilitar también los teléfonos, la dirección de los medios donde puedan hacer llegar su solidaridad, sus cartas. Imagínense usted que el abogado vaya y le digan pues a los prisioneros, a ese hombre, a ese ser humano que tiene 30 años de prisión, y le diga, ¿sabes qué? En un pueblito de por allá, en una radio comunitaria de allá de Roma, de Turín, o sea, donde llegue de Italia, de alguna parte del mundo, están luchando por usted, debe ser bastante reconfortante realmente, debe ser muy bueno. Entonces, y eso, queridos oyentes, a ustedes no es mucho esfuerzo. Entonces queremos que sobre esa base, sobre ese punto inicial, siquiera podamos tener puntos en común. Yo sé que obviamente seguro muchas cosas podemos diferir, en muchas cosas no podemos estar de acuerdo, en método, en forma, pero lo que sí no creo que no nos separa y nos une es la vida de los seres humanos. Ya hay muchos seres humanos que ya han pagado, reitero, en demasía su delito, si a ellos nos vamos, ¿no? Si han cometido un delito, ya pagaron hasta demasía. Muchas gracias, saludos a uno de ustedes, gracias, queridos compañeros, por permitirme estas palabras. Bene, quindi finisce qua e appunto lui ci torna a dire, insomma, è stata bella questa conclusione, perché appunto probabilmente, insomma, da prigioniero politico non sono io a fare le mie introduzioni, non siamo noi, ma giustamente ha detto, beh, io vi darò poi, ci ha mandato appunto la pagina della sulla giornata dei prigionieri politici, da cui insomma che poi vi gireremo quando metteremo il podcast sulla pagina sul sito della radio. E diceva che probabilmente, sicuramente ci saranno tante cose su che non possiamo condividere delle nostre lotte, dei nostri percorsi, tante cose su cui possiamo non essere d'accordo, però probabilmente ancora di più in un momento come questo, quello che ci può unire è il fatto di aver lottato comunque per la vita umana, per delle vite umane, per dei diritti indiscutibili, e forse in questo momento, appunto, richiamando a questa pagina web, quindi probabilmente anche mettendo alle spalle un po' di storia, in questo momento possiamo veramente riuscire a trovarci in un punto in comune. Quindi ci saluta, ci ringrazia e ci torna a dire che in questa pagina c'è anche il modo di scrivere a qualche detenuto o detenuta. Insomma, questa è una cosa che qui non ci risulta nuova. Ci diceva, pensate, un avvocato che va da un detenuto che sta lì da 30 anni, 25 anni, e gli dice, ma sai che è successo? Mi è arrivata questa lettera da Roma, e casomai viene da un piccolo centro, la sua vita è passata in un piccolo centro del Perù, abbandonato, poi ha deciso di intraprendere un percorso armato, diventa un detenuto politico, e gli arriva l'avvocato dopo 30 anni con una lettera e gli dice, sai, questa lettera te la mandano, che so, da Roma o da Torino, immaginatevi quanto può essere bello. Questo è un discorso che appunto lo citiamo oggi dal Perù, è un lavoro che la radio fa da tanti anni, è un lavoro che insomma mi stringe il cuore in questi giorni, perché poi i dolori non passano mai. E quindi ecco, io direi che adesso non so se voi avete altro da aggiungere, l'intervista è finita, noi la metteremo sul sito e scriveremo anche questa cosa, probabilmente. A me piacerebbe forse più che introdurla noi, mettere questa sua parte finale, tradurre questa sua parte finale, perché penso che sia stato onesto. E detto questo, appunto, vi ricordiamo che il racconto che avete sentito appartiene a tutti i prigionieri politici, no solo a quelli di una parte, e direi che alle 19:18 forse mettiamo un pezzo musicale e poi facciamo i saluti. Che dite, guys? Direi di sì, dai. Yes. Mettiamo una cosa allegra. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí.